Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione in podcast sulla stagione NBA 2017-2018. Riprendiamo il nostro breve ma intenso viaggio nelle due conference della National Basketball Association, partendo da est e da quella che è stata la notizia shock degli ultimi giorni, che ha squarciato in due la Lega come un fulmine a ciel sereno. Derrick Rose, l'ex Chicago's Finest, proveniente da una deludentissima esperienza ai Knicks ed appena approdato a Cleveland, sembra meditare il ritiro. Si tratta di un evento già visto lo scorso anno, quando letteralmente scomparve da New York senza avvisare, minacciando proprio di appendere le scarpette al chiodo, probabilmente demoralizzato da una fisicità che inevitabilmente non riconosce più, nonostante l'ancor giovane età. Non starò qui a raccontarvi il calvario di gravissimi infortuni che hanno caratterizzato la carriera di Rose, sacrificandola in modo irreversibile, perché lo sapete tutti già bene e comunque ovunque lo si sta ricordando in modo anche piuttosto toccante. Contemporaneamente non ha senso neanche riproporre il paragone tra quel giocatore incredibile, atleticamente inarrivabile ed a tratti irreale, che era Derrick nei suoi primi anni nella Lega, ed il ruolo di specialista che avrebbe dovuto ricoprire quest'anno a Cleveland. Un ruolo non necessariamente da comprimario, in un avvio di stagione da 14 punti di media seppur in appena 7 gare giocate e qualche penetrazione capace a tratti di richiamare memorie passate. Una squadra, quella di Cleveland, che lo aveva ingaggiato in estate e che aveva visto approdare in Ohio anche il veterano Dwayne Wade, un altro giocatore costretto, stavolta dall'età e dall'esperienza, ad accettare di partecipare ad una nuova fase della sua carriera, meno da protagonista, con l'obiettivo di aiutare LeBron James e Isaiah Thomas a raggiungere o tornare sulla vetta della Lega. Un'impresa che appariva forse difficile, ma che con il mercato importante che aveva visto Cleveland protagonista lasciava più di qualche legittima speranza. Derrick Rose invece sembra di nuovo sul punto di gettare la spugna, di nuovo fuori per infortunio, di nuovo dopo aver sfiorato diversi acciacchi e problemi nelle prime settimane di stagione. Probabilmente psicologicamente è giunto al limite. Forse si accontenterebbe anche di fare il comprimario, consapevole di non poter ambire a molto di più e di essere già sufficientemente beneficiario di una tenacia senza la quale recuperare dagli infortuni occorsi sarebbe stato impossibile, ma senza dover sopportare continue ricadute o evitabilissimi stop and go. Attorno a lui, compagni e allenatori lo aspettano a braccia aperte, pur comprendendo la complessità di una scelta che può avere ripercussioni principalmente sull'uomo oltre che sul giocatore, per la quale è opportuno decidere in serenità. Oltre a questo, ma non approfondiremo, per Derrick Rose potrebbero esserci anche problemi di portafoglio legati allo sponsor Adidas e agli accordi presi che, ritirandosi, verrebbero meno. L'augurio è quello di vederlo di nuovo in campo, non importa se da protagonista o con il contagocce. Come capita con lo stesso Dwayne Wade, la speranza è quella di poter vedere talenti simili giocare gare importanti in zona aprile-maggio, vederli di nuovo con la concentrazione a mille in attesa di una palla che scotta, sperar di tornare a valutare la loro esperienza nei momenti decisivi della stagione. Certo, fa un po' senso mettere entrambi i giocatori, di due età e due passati ben diversi, nello stesso insieme, ma il destino ha regalato a Rose questo calvario continuo che torna a riproporsi, che solo per questo lo porterebbe a meritare il tanto agognato anello di campione, agognato per la verità per tutti i giocatori della Lega, che può sperare di mettersi al dito solo decidendo di restare a Cleveland e più generalmente nella Lega, come giocatore ovviamente. Personalmente mi auguro che resti, ovviamente che decida quindi di continuare la sua esperienza anche per il bene del gioco oltre che per il suo bene personale. Comunque attenzione, perché a prescindere dalla questione Rose, Cleveland sembra essersi definitivamente risvegliata dal torpore iniziale, portando a termine una serie di risultati positivi ad est guidata dal solito LeBron James. Oltre a tutto questo, si susseguono voci relative ad ulteriori scambi di mercato, uno dei quali riguarderebbe DeAndre Jordan dei Los Angeles Clippers, centro che rischierebbe di lasciare proprio Los Angeles praticamente a gratis in estate e che quindi potrebbe finire entro la metà di stagione proprio alla corte di James e compagni. La stagione dei Clippers prosegue nell'irrimediabilità dell'infortunio che ha colpito anche Patrick Beverley, con una squadra che sta affrontando progressivamente, dopo l'inizio stagionale da 4 vinte e 4 perse, un periodo piuttosto complicato, ulteriormente aggravato dal recentissimo stop per due mesi probabili della star Blake Griffin, infortunatosi in settimana contro i Lakers. Jordan potrebbe potenzialmente accasarsi ai Cavs per Tristan Thompson, il che potrebbe essere utilissimo ai vicecampioni per rafforzare un ruolo dove inevitabilmente i loro antagonisti prediletti, cioè i Golden State Warriors a ovest, sono notoriamente piuttosto deboli. Questa soluzione di scambio può essere destinata a modificarsi, però, considerando la necessità impellente di ottenere un realizzatore al posto di Jordan dei Clippers, aggravata proprio dall'ennesimo stop piuttosto importante di Griffin, che, come ricorderete, non è assolutamente nuovo ad infortuni stagionali gravi e simili. Quindi, per quanto riguarda Cleveland, chiaramente arrivasse Jordan si prospetterebbe un ritorno ad una struttura tattica più convenzionale, piuttosto che lo small ball che Lou ha sperimentato più volte in questo avvio di stagione con Kevin Love usato da centro. Potrebbe trattarsi di un'alternativa in più in quello che è destinato a restare comunque un cantiere aperto almeno fino a quando Isaiah Thomas non sarà in grado di rientrare ed amalgamarsi con i nuovi compagni. Per adesso, comunque, l'approdo di DeAndre Jordan, per quanto potrebbe essere interessante, resta unicamente e decisamente fantabasket. Dando un'occhiata rapida ai risultati proprio dei vice campioni, che hanno chiuso la nostra settimana, al solito stiamo registrando di mercoledì pomeriggio, con la vittoria casalinga su Miami Heat e con un Kevin Love da 38 punti, e la sera precedente con la vittoria sui giovani Sixers di Joel Embiid, dove un James da 30 punti e 13 rimbalzi ha portato a scuola la cosa più vicina a lui tra i nuovi arrivi della Lega, cioè Ben Simmons, in questo momento sostano al terzo posto di conference con 13 vinte e 7 perse, soprattutto con una striscia di vittorie aperta a 9 consecutive. Occhio ad est anche ai Miami Heat, che hanno fermato la corsa trionfale di Boston a quota 16 vittorie consecutive e che stanno decisamente iniziando a correre e a vincere, seppur siano stati stoppati proprio da James e compagni nell'ultima notte pre-registrazione. 10 vinte e 10 perse, il loro record, con un nono posto di poco sotto i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, che stanno occupando l'ultima posizione utile potenzialmente per i playoff, cioè l'ottava. Al secondo posto di conference resistono i Detroit Pistons, che si sono anche loro permessi di strapazzare Boston nella sfida di lunedì notte al Garden, con un Andre Drummond stellare da 26 punti e 22 rimbalzi. Nella Western Conference, in settimana si è consumata la prima sfida tra Oklahoma City e Golden State Warriors, con il ritorno del figlio prodigo Kevin Durant in quella che fu casa di mille suoi successi, ma di nessun titolo NBA come è noto. Accoglienza riservatagli piuttosto pesante, sia a livello di pubblico, che lo fischia più o meno ogni volta che tocca la palla, sia rispetto all'atteggiamento dell'ex amico Russell Westbrook. È lui che, scatenatissimo in tutti i sensi, guida i Thunders in una strapazzata piuttosto netta, dove Golden State soccombe per un 108 a 91 finale. Il numero 0, ex MVP dello scorso anno, ne combina di ogni. Dal punto di vista del gioco è visibilmente elettrico e non si fa assolutamente mancar nulla. Dal punto di vista personale mette in piedi uno show degno dei migliori performer cattivi del wrestling, con smorfie, minacce, faccia a faccia contro proprio Kevin Durant, esultanze bizzarre ed aizzamento continuo della folla. Sembra la gara scaccia crisi per Oklahoma, con Russell che chiude con 34 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Invece ancora una volta, a testimonianza che le alchimie di squadra saranno lentissime forse da conquistarsi, quanto complesse da raggiungersi, arrivano due sconfitte consecutive a seguire. La prima contro i già citati Pistons, in rimonta e praticamente all'ultimo tiro, o meglio, Westbrook sbaglia l'ultimo tiro decisivo. Quella seguente contro i derelitti Dallas Mavericks. Insomma, la luce in fondo al tunnel è ancora lontana dal vedersi per i Thunders, che infatti restano fuori dalla top 8 di conference anche questa settimana. Senza Kevin Durant e con un Stephen Curry fuori per un problema alla mano, Golden State soccombe incredibilmente all'Oracle Arena contro i Sacramento Kings, e quindi il primato momentaneo ad ovest è in solitaria per gli Houston Rockets, con 16 vinte e 4 perse al momento in cui stiamo registrando. Si tratta comunque di una squadra che, appunto in questo istante, ha 11 vittorie nelle ultime 12 gare, con un Chris Paul appena rientrato che si sta assestando su medie pari a 10.8 punti, 10.8 assist, oltre 4 rimbalzi e 2.2 recuperi nelle 6 gare giocate stagionalmente, 5 dal rientro definitivo. A proposito di rientri, a San Antonio si è rivisto finalmente anche il francese Tony Parker, e sembra che sia in procinto di tornare anche uno dei giocatori potenzialmente più forti della Lega, protagonista di uno degli stop più misteriosi degli ultimi anni. Si tratta di Kawhi Leonard, che ancora ha da esordire in stagione dopo l'infortunio occorso nella post-season dell'anno scorso per un contatto con Zaza Pachulia degli Warriors. Malgrado le assenze ed un gioco non esattamente spumeggiato, pareggiante. La squadra di Popovic si mantiene al terzo posto ad ovest con 13 vinte e 7 perse, lo stesso record esatto al momento di Cleveland. Chi scende vertiginosamente a ovest sono invece i Memphis Grizzlies, dispersi dopo un avvio in media con le ultime stagioni. Se guardiamo alle classifiche, la squadra si trova sotto le due squadre di Los Angeles. Se guardiamo ai risultati, hanno una striscia aperta di 8 sconfitte consecutive con solo 2 vittorie nelle ultime 13 partite. Tutto questo non poteva essere altro che causale del licenziamento del coach David Fizdale, che inevitabilmente è stato accompagnato da tutte le polemiche del caso, considerando comunque che in America l'esonero degli allenatori non è cosa tanto abituale quanto lo è da noi o quantomeno nel nostro calcio. A proposito, se siete tifosi del Milan, chiedetelo a Montella. Concludiamo con una nota di inutilità che può, anzi deve, essere giusto spunto per una superficiale discussione. Superato lo scoglio delle 20 partite stagionali, la NBA ha reso pubblica la classifica della top 10 dei giocatori attualmente in corsa per il titolo di MVP, una sorta di power ranking dei giocatori in un certo senso. La cosa lascia ovviamente il tempo che trova, soprattutto se siamo convinti nell'annosa discussione al riguardo che i risultati di squadra siano decisivi. Tuttavia, nell'attuale top 5, i risultati di squadra contano e come, con James Harden al numero 1 attuale e Kyrie Irving al numero 2, entrambi alla guida delle prime due squadre della Lega. Al numero 3, LeBron James ovviamente. Fermiamoci un attimo qui, perché da una parte ammetto un problema personale con il gioco di James Harden. Per quanto riconosca la sua forza, non riesce né a coinvolgermi né ad esaltarmi. Malgrado questo però, il fatto che si stia mantenendo su medie illegali è cosa piuttosto palese. Per quanto riguarda invece Kyrie Irving, si tratta di un giocatore che tende ad entusiasmarmi e che a Boston sta facendo cose turche, soprattutto se consideriamo l'evento sfortunato in Opening Night che ha subito segnato l'avvio del suo cammino. Per quanto riguarda invece un LeBron James che si trova alla 15ª stagione nella Lega, appare, malgrado a volte sembri limitarsi a livello di intensità, di gran lunga il più forte della Lega, a mio avviso, a tutti i livelli. Quindi teoricamente il numero uno di questa classifica secondo me dovrebbe essere lui, anche perché Cleveland la sta guidando quasi come unico giocatore della squadra, seppur a seguito di un mercato più che importante, ma che ad oggi in soldoni è stato poco efficace. E poi, questa storia dell'essere fuori classifica perché si tratta di un premio che ha già vinto è pure secondo me una sonora stronzata. Se lui è il numero uno, come lo è palesemente per completezza e concretezza, è giusto, secondo me, che potenzialmente possa ripetersi ancora. Quindi io in questo momento voterei MVP LeBron James. Credo che se non ci saranno particolari problemi, la sua stagione dovesse mantenersi a questi livelli, non potrebbe non essere premiata. Dietro a questi tre comunque c'è uno Stephen Curry che obiettivamente sta giocando ad oggi una stagione di super livello, sia per leadership che per concretezza ed anche per gli ovvi risultati di squadra ai quali siamo ben abituati considerando le ultime stagioni più che positive degli Warriors. La prima ed unica sorpresa nella top 5 è quindi all'ultimo posto utile, al quinto posto. Si tratta di Joel Embiid, l'uomo che può riportare il ruolo di centro ad un livello decisivo nell'economia del gioco della Lega, quello che ancora non ha probabilmente raggiunto neanche il 5% del suo potenziale, ma che in questo avvio sta dimostrando una visione di gioco invidiabile, oltre alla splendida ed apparentemente messa in conto doppia di media in materia di punti e rimbalzi, mantenendosi anche sul 50% di percentuali dal campo, che non dimentichiamoci è una statistica piuttosto importante viste le incursioni frequenti dietro l'arco dei tre punti che pratica piuttosto spesso e volentieri e che tra l'altro esegue con successo. Ovviamente la corsa al titolo di MVP, come a quello ben più importante che si consegnerà a giugno, cioè quello di campioni, è ancora lunghissima. Continueremo a monitorare questo power ranking, soprattutto per accogliere lo spunto di discussione generato, anche perché comunque in soldoni il titolo stagionale sembra roba da decidersi tra i primi quattro già citati, per quanto dietro ci siano nuove forze che premono, come Giannis Antetokounmpo oppure Kristaps Porzingis, senza dimenticare l'avvio stellare di LaMarcus Aldridge a San Antonio e quello della coppia Anthony Davis e DeMarcus Cousins in quel di New Orleans, tanto per citare alcuni nomi di alcuni lunghi che stanno facendo più che bene in questa stagione. Benissimo, anche questa puntata di NBA Week giunge al termine. Colgo l'occasione per rinnovarvi i nostri appuntamenti, ricordandovi di seguire sempre la nostra pagina Facebook che si chiama NBA Week per aggiornamenti o commenti dell'ultimo minuto. Invece, come al solito potete ascoltarci tutti venerdì sera alle ore 21 sul flusso streaming di Radio Big World.